Storie italiane. L'abito da sposa in fondo al mare. C'era una volta, nel regno di Yerevan, un cavaliere di nome Monet. Era giovane, coraggioso e molto bello, ma non venne mai riconosciuto dal suo malvagio e avido re Claude. Monet aveva un cavallo di nome Godot. Godot non era un cavallo normale. Era dotato del potere della saggezza. Un pomeriggio, Monet e Godot erano nei boschi. Oh, il tempo è così bello e il sole è così splendente. Cosa ne pensi, Godot? È bello, maestro. Andiamo nel cuore della foresta. Possiamo mangiare delle bacche lì. Godot galoppò nel bosco e Monet cercò bacche. All'improvviso, Monet vide una piuma splendente. Oh, che bella piuma! Mi sembra come di avere un fuoco nelle mie mani che non brucia. Questa è la piuma dell'uccello di fuoco più raro. Non tutti possono averla. Oh, veramente? Dovrei portarla da Re Claude. Così finalmente mi apprezzerà e mi ricompenserà con un sacco di oro. Maestro, so che vuoi vincere la stima del tuo re. Tuttavia, ti suggerirei di non portargli questa piuma, perché non porterà altro che guai. Godot, pensi che questa bellissima piuma ci causerà problemi? Penso che non ci porterà nient'altro che ricchezze. Dipende da te, maestro. Credo. È una grande idea. Andiamo, Godot. Godot e Monet tornarono al galoppo nel regno per mostrare ciò che avevano trovato. Monet mostrò la piuma di fuoco al re malvagio. Vostra maestà, ho trovato per voi questa bellissima piuma del raro uccello di fuoco. Rappresenta il vostro prestigio. Molto bene, Monet. Questo è davvero un atto di coraggio. Ma questa non è l'unica cosa che lo dimostrerà. Se puoi portarmi la piuma, puoi portarmi anche l'uccello. Portami l'uccello, altrimenti ti getterò nella tana del leone. Monet fu scioccato dalla richiesta del re. Era impossibile per lui portare l'uccello feroce e potente. Monet uscì dalla corte piangendo. Cosa c'è che non va, maestro? Il re mi ha chiesto di procurargli l'uccello di fuoco. Come posso portargli quella magnifica creatura? Mi getterà nella tana del leone? Non preoccuparti, maestro, ti aiuterò io. Chiedi al tuo re di portarci centinaia di sacchi di mais da spargere nel vasto campo di questo villaggio e lui avrà il suo uccello. Monet andò dal re e chiese quanto detto. Mais? Bene allora. Il giorno successivo il re Claude mandò i suoi uomini a spargere mais sui campi. Ora dobbiamo aspettare fino a sera. Godot e Monet attesero pazientemente. Improvvisamente videro un'ombra sul campo. Alzarono gli occhi e videro il magnifico uccello di fuoco che era venuto a mangiare il mais. Wow! Rimasero a bocca aperta finché Godot disse: porta la rete! Monet afferrò la rete e intrappolò velocemente l'uccello di fuoco e lo portò con orgoglio al re. Ecco qua! Il potente uccello di fuoco che una volta apparteneva al cielo ora appartiene a te. Che bello! Sei molto coraggioso! Ma il mio test non è finito. Se puoi portarmi l'uccello, puoi portarmi la principessa Vasilissa che vive sulla costa. Portala da me, altrimenti la tana del leone ti sta aspettando. Questa volta Monet aveva paura. Posso ingannare un uccello, ma è impossibile ingannare una principessa. Monet ne parlò con Godot. Godot annuì e disse: questo non è un problema. Il problema deve ancora venire. Chiedi al tuo re di procurarti la posizione di respiro del drago, una tenda e delle rose. Possiamo mettere la principessa a dormire. Monet chiese quanto detto. Il re Claude era perplesso, ma fornì a Monet tutto ciò che voleva. Monet e Godot andarono sulle rive e videro la principessa Vasilisa su una barca d'argento con remi d'oro che cantava una dolce melodia. Ecco il bel sole mentre brilla su di me. Ecco la natura che benedice anche me. Monet guardò sbalordito la principessa. Non aveva mai visto nessuno di così bello come lei. Veloce, fai la tenda e mettici i fiori. Presto, la principessa arrivò sulle rive. Monet e Godot nel frattempo montarono una tenda e l'aspettarono. Vorresti dei fiori, Altezza? Li ho appena raccolti per te. Oh, che meraviglia! Le rose sono le mie preferite. Monet le diede i fiori e lei li annusò. Non sapeva che la pozione del respiro di drago era stata spruzzata sui petali. Mentre li annusava, si sentì girare la testa. Oh, mi sento assonnata. Monet la tenne mentre lei cadeva incosciente. Godot e Monet tornarono al galoppo nel regno con la principessa. Quando entrarono nel regno, il re Claude fu felicissimo. Qualcuno vada a suonare le campane del matrimonio. La principessa è arrivata. Gli uomini del re suonarono le campane che risvegliarono la principessa Vasilisa. Oh, dove sono? Sei qui per lo sposo. Sposo? Sì, mia cara principessa. Sono io che sposerai. Cosa? Non posso sposarmi? Perché no? Posso solo sposarmi con il mio abito da sposa. Oh, non preoccuparti di questo. Ti porterò i migliori sarti reali per cucire un vestito bellissimo per te. Mi dispiace, maestà, ma il mio abito da sposa è il miglior vestito e non potrà mai essere sostituito. È sul fondo del mare, sotto la roccia più grande. Ti sposerò solo se lo prenderai per me. Monet, hai sentito cosa ha detto? Portami il vestito immediatamente questa volta. Non soddisferò nessuna delle tue richieste. Prendi il vestito o altrimenti ti getterò nella fossa dei pitoni. Monet era scioccato e Godot aveva sentito tutto. Così è? So esattamente cosa bisogna fare. Godot galoppò rapidamente verso la costa. Cosa stai facendo? Aspetta e vedrai. Cosa stai facendo? All'improvviso le onde si fecero più forti e apparve una strana aragosta. Ciao, Larry. Godot, amico mio, sono contento di incontrarti dopo tanto tempo. Dimmi, come posso aiutarti? La principessa Vasilisa sta per sposarsi. Ah, sei qui per l'abito da sposa. Assolutamente. Larry danzava nelle acque e mentre lo faceva due grandi aragoste arrivarono sulla superficie del mare. Ora hai il nostro aiuto, ma solo i più coraggiosi possono raggiungerlo. Verrò con voi per prendere il vestito. Larry annuì e diede a Monet una bottiglia di pozione magica. Ecco qui, si chiama pozione respira sott'acqua. Bevila e potrai respirare sott'acqua. Monet beve la pozione magica e si tuffò sott'acqua. Mentre nuotavano, Monet individuò la grande roccia. La sollevò facilmente mentre le aragoste afferravano il vestito. Ecco che arrivo, re Claude. Monet uscì dall'acqua e le aragoste lo seguirono. Ah, finalmente il vestito. Siamo quasi giunti alla fine di tutti i nostri problemi. Quasi? Perché quasi? Perché abbiamo ancora un problema da risolvere. Bene, allora. Buona fortuna. Ci vediamo la prossima volta. No, ho bisogno del tuo aiuto per quel problema. Che cos'è? Godot disse a Larry l'aragosta e a Monet tutto ciò che aveva pianificato. È tutto? Questo è un compito molto semplice. Dai, andiamo! Godot e Monet tornarono vittoriosamente nel regno. Vostra Maestà e Vostra Altezza, ho preso l'abito da sposa della principessa dal fondo del mare come richiesto. Spero che voi siate contento. Ottimo adesso! La principessa diventerà finalmente la mia regina. Il re e la regina vissero felici e contenti. Ma ve lo darò solo se vi scuserete con il regno. Scusarmi? Per cosa? Sono il re più grande e tu mi stai dicendo di chiedere scusa? Non lo farò mai! Bene, allora, non mi lasci altra scelta. Improvvisamente le aragoste entrarono a corte, stringendo le loro chele. Cosa fanno queste sporche aragoste? Lo siamo sporche, caricate! Le aragoste lo caricarono e il re corse. Lasciatemi in pace, sciocche aragoste! Guardie, catturatele! Le guardie corsero verso di loro per fermarle, ma furono scacciate via. Il re venne inseguito fino al balcone. Le aragoste lo avevano intrappolato. Dillo! Dillo! Bene, sono stato un re cattivo e disonesto. Mi scuso. E dimettiti. No. Perfetto, mi dimetterò. Perfetto, ora portiamolo nei sotterranei. Il re Claude fu portato nei sotterranei, imprigionato. Ci sono ancora altri problemi che devono arrivare? Non penso proprio. La principessa Vasilisa ringraziò Monet. Oh, grazie mille, giovane e coraggioso. Bene, non ringraziarmi. Sono stati il mio amico Godot, il cavallo potente, e Larry l'aragosta e il suo equipaggio che ti hanno davvero aiutata. La principessa Vasilisa sorrise e annuì guardando Godot e Larry. Ma, principessa, posso chiedervi ancora una cosa? Sì? Perché ha accettato di diventare sua moglie quando sapeva che vi ha rapita? A quel punto la principessa Vasilisa rise e anche Larry. Monet e Godot erano confusi. Che cosa sta succedendo? Bene. Vedi, il motivo per cui il mio abito da sposa giaceva in fondo al mare era per assicurarmi di sposarmi solo con la persona che mi piace. L'abito è stato sotto la sorveglianza del mio caro amico Larry per tutto questo tempo. Larry è tuo amico? Sì, e gli avevo detto che se mai qualcun altro all'infuori di me fosse andato a prendere il vestito, avrebbe significato che mi stavano costringendo a sposarmi e che quindi sarebbe dovuto venire a salvarmi. E così la nostra storia è giunta alla fine. Monet fu nominato nuovo re di Yerabon. Andava spesso a trovare la principessa Vasilisa perché erano diventati buoni amici. E quanto a Godot e Larry? Beh, guardate voi stessi. Sai che avresti potuto parlarmi dell'intero accordo con la principessa invece di aspettare per il gran finale? Stavo solo mantenendo il privilegio del mio legame con la principessa. Certo, è il nostro legame, la nostra amicizia. Mi hai fatto sembrare... Ah, ci risiamo!